pace sempre nel mio presente. Mangio, bevo, suono e mi perdo, quasi ogni giorno rubo spazio e tempo. Sarà davvero poi così tanto quello che dici che ti sto dando. Sei sempre nel mio presente. Sei sempre nel mio presente. Voglio essere il tuo motore per tutti i giorni, tutte le ore, e non scordarmi così facilmente che tu sei sempre, sempre, sempre nel mio presente. Dai, dai, dai, dai, dai, dai.